Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Penso di cercare opportunità all'estero, anche per l'impegno che sto mettendo negli studi, rischio quindi di non trovare un lavoro ben retribuito. Proviamo a rimanere in Italia, ci provo. Credo di rimanere in Italia. Prima cercherò qualcosa in Italia, poi se non c'è concorrenza con l'estero valuterò anche quello. Spero all'estero, in realtà spero di andare in Inghilterra o in Spagna, perché penso che in Italia non ci siano buone prospettive per i giovani, soprattutto nel campo scientifico. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Finestra introduttiva con l'indagine che Davide Mura ha realizzato per Manager Italia tra gli studenti degli Atenei milanesi. Quello che avete ascoltato è un estratto delle interviste che evidenziano una platea di giovani divisa tra chi non vuole vedere vanificati i propri sforzi di studio e punta verso l'estero e chi invece scommette ancora sulla penisola. L'integrale delle interviste su crisiesviluppo.manageritalia.it. I cervelli in fuga sono cuori disperati, così li ha definiti il premier Matteo Renzi. È la nostra frase della settimana. Renzi, in visita in Calabria, ha poi aggiunto: da premier sono qui per dire che se un ragazzo vuole andare all'estero è bene che lo faccia, ma se qualcuno vuole restare o tornare, deve essere messo in condizione di farlo, deve poter lavorare qui. Crisi economica e lavoro restano intanto in cima alle preoccupazioni degli italiani che si sentono impoveriti, evidenziano l'aumento delle diseguaglianze e temono per il futuro dei figli. Lo denuncia il 7° rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa. Ben il 60% dei cittadini ha paura per il futuro dei figli, il 67% considera l'emigrazione all'estero la sola speranza possibile per i ragazzi. Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia. Secondo l'Istat, quasi 7 milioni di under 35 restano a vivere a casa con almeno un genitore. Non è sicuramente il caso del protagonista della puntata di oggi, lui di chilometri ne ha macinati davvero tanti per realizzare il proprio sogno professionale. I giovani vogliono vivere, crescere economicamente e professionalmente, insomma vogliono avere delle soddisfazioni, non è che chiedono la luna, il mondo del lavoro può essere mobile, però non precario. Andrea Colaiacomo, 30 anni, è un ingegnere esperto nei modelli del traffico e del trasporto, di stanza a Melbourne, in Australia. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio a notiziari. Secondo i dati AIRE sono 4.387.000 i cittadini italiani residenti all'estero, le concentrazioni maggiori in Svizzera e Germania con oltre 500.000 connazionali. Questi alcuni dei numeri del convegno internazionale La Nuova Emigrazione Italiana, organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia. Per Enrico Pugliese del CNR si tratta di un'emigrazione scolarizzata, non sempre legata a occupazioni intellettuali, e per il professor Haug dell'Università di Koblenz l'emigrazione verso la Germania sta crescendo. I migranti italiani sono uno dei tre gruppi più numerosi dopo turchi e polacchi. Conferma l'ufficio di statistica federale tedesco Destatis, boom di arrivi dalla penisola in un anno più 4,4%, ora i connazionali nuovi e residenti sono 23.526. Torneremo a breve sui risultati di questo convegno. Sono pochi i laureati in Italia, sono aumentati negli ultimi anni al 22%, ma non abbastanza per tenere il passo con la media europea del 35%. Le immatricolazioni sono in calo, il tasso di abbandono riguarda quasi il 40% degli iscritti e per concludere una laurea triennale si impiegano 5 anni, lo certifica l'ANVUR. Laurearsi in Italia rende meno che all'estero, secondo Banca Italia. Nel 2010 il rendimento della laurea per i lavoratori dipendenti rispetto a chi ha solo un diploma è stato di poco più del 30%, 15 punti percentuali in meno rispetto ai maggiori paesi europei. Così il governatore Ignazio Visco, precisando che questo rendimento è significativamente più basso per i giovani. Negli ultimi due anni 100.000 laureati in più sono finiti tra le persone in cerca di lavoro, ora sono 325.000, lo denuncia l'Istat. Sempre secondo l'Istat, tra i giovani 25-29 anni il tasso di disoccupazione dei laureati risulta più elevato di quello dei diplomati. E conferma Alma Laurea, la disoccupazione a un anno dal titolo è cresciuta di 12 punti in 4 anni per le lauree magistrali e di 15 punti per quelle di primo livello. I neolaureati disoccupati sono il 26,5% di chi ha terminato la triennale e il 23% di quelli con la laurea specialistica. Si lavora di meno e si guadagna anche meno. In 6 anni le retribuzioni reali sono calate del 20%, passando a 1.000 euro. Il direttore Andrea Cammelli è preoccupato dalla fuga all'estero. Sentiamolo al microfono di Anna Rita D'Ambrosio. La preoccupazione è robusta perché naturalmente noi perdiamo sostanzialmente il capitale umano migliore, quello che si è preparato di più, quello che si è preparato meglio e quello che è più capace, che è più abile. Io spero naturalmente che questo possa modificarsi nel corso del tempo, e cioè che i ragazzi migliori se ne vanno all'estero, noi li abbiamo preparati a nostre spese naturalmente, e che questi giovani laureati possano poi rientrare nel paese il prima possibile. Torniamo a parlare di storie di controesodo. Sandra Savaglio, nota astrofisica italiana che 10 anni fa si guadagnò la copertina della rivista americana Time quale simbolo della fuga dei cervelli europei negli Stati Uniti, rientra in Italia. Lo farà in autunno, destinazione Università della Calabria. Rientrerà dal Max Planck Institute di Garching in Baviera, dove è Senior Research Scientist. Ci spiega il perché. Prima di tutto perché è stata un'offerta che non si può rifiutare, un'occasione veramente molto buona. E, diciamo, un'offerta per tornare direttamente senza passare per meccanismi burocratici che conosciamo in Italia e sono chiamate dirette che arrivano dal Ministro della Ricerca. Poi perché è un dipartimento di fisica dove andrò che funziona molto bene. È in un'università grande, più di 30.000 studenti. L'anno scorso nella valutazione della produttività in fisica, il Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria si è classificato primo in due settori diversi. E in più il mio desiderio sarebbe quello di contribuire alla ricerca nel settore dell'astrofisica con delle condizioni secondo me abbastanza favorevoli in questo momento, perché la ricerca italiana produce tanto nonostante e costi poco. Con quale incarico tornerai esattamente? Come docente? Sì, docente, professore ordinario in astrofisica. Senti, più in generale sta cambiando un po' il vento, che veramente si stanno aprendo delle opportunità per fare in modo che voi che siete all'estero possiate tornare a contribuire in modo attivo allo sviluppo di un paese che è stato per troppi anni fermo. Sì, io spero che questo trend di crescita, io ripeto, sto guardando le statistiche sulla produzione scientifica in Italia e l'Italia negli ultimi anni nella produzione è cresciuta senza spendere di più, cioè non si spende di più nella ricerca, però c'è comunque molta attività e quindi anche un ritorno dal punto di vista scientifico a livello internazionale. La storia di questa settimana di giovani talenti ci riporta a latitudini lontane, dall'altra parte del globo, in Australia, dove statistiche alla mano è boom di italiani in cerca di lavoro, prospettive e in definitiva futuro. Nome: Andrea. Cognome: Colla Giacomo. Età: 30 anni. Città di origine: Colleferro. Studi: ingegneria gestionale. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2012. Per andare dove? Australia. Perché? Non trovavo lavoro. Quale lavoro svolgi attualmente? Modellista di trasporti. Dove? Melbourne. Tornerai? La speranza c'è, ma non credo. Così fan tutti, questo è il problema, nessuno rifiuta, io l'ho fatto, ho rifiutato, ma sicuramente c'era la fila dietro di me ad accettare. Così scrivi Andrea con un impeto d'orgoglio a giovanitalenti@radio24.it. La frase che citi ne riecheggia un'altra molto simile: in Italia funziona così, che tutti noi abbiamo sentito rivolgerci almeno una volta nella vita. Banali giustificazioni, foglie di fico per coprire ogni tipo di ingiustizia e violazione della legge. Andrea, è per questo che siamo andati a rotoli? Secondo me sì, e non solo nel mondo del lavoro, si fa così da tutte le parti. Il problema però è che nessuno si ribella veramente. La tua storia ora, un piccolo assunto di un paese dove la correlazione tra l'impegno profuso e i risultati nel lavoro non è, come altrove, così automatica. Dopo il liceo scientifico ti iscrivi a ingegneria civile prima di passare a gestionale. Il primo intoppo arriva già con la tesi. Quale sorprendente risposta ti senti dare dal docente cui chiedi una tesi su Basilea 2? Fare delle interviste a livello europeo, almeno così avevo proposto, e invece il professore mi ha detto sì, l'argomento è interessante, però non ti possiamo aiutare a trovare connessioni con l'Europa. Diciamo che tra tutti i rifiuti possibili questo era il meno probabile. Come se vivessimo in un'isola. Come se vivessimo in un'isola. Cambi così professore soggetto di tesi, ti sposti sui modelli di trasporto, una scelta che influenzerà la tua carriera. Alla fine qual è il tuo personale bilancio dell'esperienza universitaria? A livello di preparazione accademica, nonostante tutto, è abbastanza buono, anzi direi molto buono. Per quanto riguarda le connessioni con il lavoro, direi scarso, e invece, avendo la mia esperienza personale, le connessioni con l'Europa sono totalmente insufficienti. E col senno di poi, meglio studiare direttamente all'estero, anche per avere un contatto più diretto con il mondo del lavoro, oppure no? A questo veramente non posso rispondere perché non ho esperienze di studio all'estero, però vorrei spostare il focus, diciamo, su un altro problema che sono le imprese. Infatti i giovani laureati trovano lavoro all'estero e questo vuol dire che la scuola, nonostante tutto, è buona. Sono le imprese che non riescono a sfruttare quello che poi è il potenziale che c'è in Italia. Il capitale umano qualificato. non lo sfruttano abbastanza. Questo è un messaggio importante. Cominci presto una collaborazione con l'Ateneo di Tor Vergata, primo vero passo professionale, anche se poco remunerato, che ti permette di fare una visita sul campo in Olanda, nell'azienda che produce software per la simulazione dei trasporti. Ti sposi, dopo un anno vieni assunto da una piccola società di consulenza. Come ti sei trovato all'interno di questa realtà? Ci sono due facce della medaglia. Essendo una piccola società ho avuto modo di fare diverse esperienze dal punto di vista amministrativo, tecnico e passando anche per la qualità. Però non avevo nessuna possibilità di crescita, quantomeno economica. Purtroppo le cose al lavoro vanno male, la società entra in crisi e ti metti sul mercato inviando dei curricula. Ti imbatti però nel desolante mondo dei contratti a progetto. Piccolo riassunto per chi non li ha mai testati. A livello assolutamente teorico, quali benefici presenterebbero? Il contratto a progetto permette praticamente di avere la libera professione senza però dover aprire la partita IVA. Questo vuol dire che si possono avere più clienti. Ovviamente questo vuol dire che non si può avere un orario di lavoro, perché si deve avere la possibilità di gestire più progetti contemporaneamente, e questo, diciamo, aumenta le possibilità di guadagno, aumenterebbe. E invece qual è la vergognosa e deplorevole realtà che si nasconde dietro l'utilizzo di questa forma contrattuale? Semplicemente gli hanno dato al posto del contratto a tempo determinato, soltanto che non si ha diritto a malattie e ferie, quindi fondamentalmente l'unico che risparmia è il datore di lavoro. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani immigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Andrea Colaiacomo, 30 anni, ingegnere e modellista dei trasporti. Ha lasciato l'Italia per l'Australia dopo averle provate davvero tutte nella penisola. Nei fatti però ha sperimentato una via crucis fatta di lavori impossibili da trovare e di un'attività autonoma con pagamenti sempre più ritardati. Dall'altra parte dell'emisfero la sua vita è cambiata, radicalmente. Riprendiamo l'ascolto. Giovani talenti. Esemplare, per chiudere il cerchio, è l'annuncio a cui rispondi di una società che cercava esperti in Excel. Come è andata a finire? Con quale sfacciataggine ti hanno proposto una totale violazione della legge? Nonostante avessi messo in chiaro fin dall'inizio che non avrei accettato nessun contratto a progetto finto, sono arrivato al colloquio finale, quindi ne ho superati due o tre, e lì mi sono sentito dire alla fine l'orario di lavoro sarà dalle 9 alle 18 con la pausa pranzo, più straordinari quando necessari, ovviamente non remunerati. E questo non era ovviamente un contratto a progetto. Giusto per non lasciare nulla di intentato, apri una partita IVA e ti metti in proprio. Investi i tuoi risparmi nel farti conoscere, nel proporre soluzioni relative ai problemi del trasporto e della mobilità. E qui scopri un'altra faccia dell'Italia peggiore, le amministrazioni pubbliche, dove dominano due figure, politico e tecnico. Ce le descrivi sommariamente? Il politico generalmente cerca di essere rieletto alla successiva tornata elettorale, quindi cerca prodotti, se li vogliamo chiamare così, che siano appariscenti e soprattutto veloci da realizzarsi, in modo tale che si veda subito l'impatto. Soluzione a breve termine, nessuna pianificazione. Esattamente. Il tecnico invece ha più sfaccettature, perché c'è chi si accontenta semplicemente dello stipendio, ho trovato chi non sa assolutamente di che cosa si stia parlando, e poi ovviamente c'è anche chi vorrebbe essere eletto anche lui alle prossime elezioni, ovviamente. Cosa proponevi alle amministrazioni comunali o pubbliche che visitavi tra Lazio, Toscana e Liguria? Io cercavo di proporre soluzioni per migliorare la viabilità, che fossero punti critici, non lo so, intersezioni particolarmente brutte, oppure fare proprio piani della viabilità a livello cittadino. E piccolo campionario di risposte più o meno ridicole che hai ricevuto? La più comune è: ovviamente non abbiamo i soldi. Poi ci sono, queste cose le fanno i vigili urbani, cosa che assolutamente non credo sia il loro mestiere, e ho trovato anche: abbiamo altri fornitori. E poi, se posso dire la più divertente, noi queste cose le facciamo ma senza computer e software. Fino alla risposta più incredibile di un comune nel Frusinate, ma forse anche la più veritiera, perché la verità in Italia è che occorre entrare nel sistema. Cosa ti proposero? Cosa ti dissero? Praticamente mi hanno proposto di scrivere al sindaco dicendo di essere disposto a lavorare per il comune gratis, appunto, così da poter entrare nel sistema. E allora arriviamo ai due paradigmi che dominano l'Italia di oggi. In Italia non lavori se non conosci, primo, e secondo, sei giovane quindi non capisci niente. Andrea, che futuro ha un paese così? Non ha futuro, non ha proprio futuro. Non lo so, siamo messi male. Il resto della tua storia in Italia si divide purtroppo tra lavori che vengono pagati con mesi o anni di ritardo. Solo per curiosità, hai ancora qualche credito da riscuotere in Italia, oltre un anno e mezzo dal tuo espatrio? Oh. ancora crediti, diciamo che in realtà uno mi è stato pagato gennaio scorso, che comunque è 2 anni dopo aver effettuato il lavoro, 1 anno e mezzo dopo essere arrivato in Australia, e ho ancora 800 euro che mi aspettano dalla pubblica amministrazione e sinceramente non so se li vedrò mai. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Così ti ricordi di un certo John australiano che lavorava nell'azienda olandese che avevi visitato poco dopo la tesi. Lui nel frattempo era tornato a casa, li scrivi, ti dice che la sua azienda sta assumendo. Quanto è stata dura la selezione in Australia? Ma per me la parte più difficile in realtà è stato parlare in inglese, e poi paradossalmente è stato più difficile convincerli che anche il resto della mia famiglia era disposto ad espatriare, però evidentemente ci sono riuscito. Ce l'hai fatta. Ad aprile 2012 hai cominciato la ricerca all'estero, ad agosto avevi già portato la famiglia in Australia. Per quale posizione sei stato assunto? Modellista dei trasporti, quindi quello per cui alla fine avevo studiato e mi ero applicato. Ricordo velocemente che hai un contratto a tempo indeterminato, hai ottenuto 2 aumenti di stipendio e sei responsabile di un team. Vorrei solamente incorniciare il concetto con cui hai concluso la tua missiva a giovanitalenti@radio24.it. Cosa conta veramente per un giovane italiano? I giovani vogliono vivere e crescere economicamente e professionalmente, insomma vogliono avere delle soddisfazioni, non è che chiedono la luna. Il mondo del lavoro può essere mobile, però non precario, questa è la cosa importante. Andrea, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Sinceramente l'Italia la vedo ferma, molto molto ferma, nonostante programmi che arrivano da tutte le parti. Secondo me tocca un po' a tutti quanti noi cambiare le cose, cercando di rispondere, diciamo, di no anche nel segreto del colloquio di lavoro, perché la piazza sembra che non basta. Ci raggiunge ora in linea Marco De Mitri, ingegnere e blogger, lavora nel campo della pianificazione dei trasporti e della sicurezza stradale, nonché socio fondatore dell'associazione Nuova Mobilità. Marco è rimasto a Bologna. Buon pomeriggio. Ciao Sergio. Marco, che effetto ti ha fatto riascoltare la storia di Andrea? Apre un barlume di speranza per il futuro o invoglia anche te a fare le valigie? Credo che la storia di Andrea sia una storia che effettivamente possono avere sperimentato tanti altri ragazzi in Italia, poi magari non tutti decidono di intraprendere la sua strada. Certo, un peccato che molti si trovino in questa situazione a causa del sistema, è una cosa che ci diciamo da molti anni. La tua storia apre fortunatamente uno spaccato più positivo sulla realtà lavorativa italiana. Prima però ci riassumi brevemente il tuo percorso di studi e carriera nella penisola? Io ho studiato ingegneria politecnico di Bari, ingegneria dei trasporti, ho avuto una buona esperienza, non posso dire niente. Poi sono andato a Bologna, ho cominciato a lavorare per una società di ingegneria multidisciplinare, qui seguo i progetti che riguardano il campo dei trasporti. Ecco, un'emigrazione, seppur interna, l'hai sperimentata in prima persona, dal Salento a Bologna. Non c'erano possibilità nel tuo sud? Io sono partito nel 2002, la situazione era molto diversa, le possibilità c'erano ma erano inferiori, quindi si rischiava di passare molto tempo, diciamo, fermi ad aspettare. Invece in Emilia Romagna l'ambiente era più dinamico. Ora c'è molta più difficoltà da tutte le parti. Vorrei spostare il focus ora sul progetto che hai avviato insieme ad altri colleghi, l'associazione Nuove Mobilità. In sintesi, di cosa vi occupate? È un'associazione di promozione sociale che io ho contribuito a fondare 3 anni fa, siamo sparsi in tutta Italia, non solo, visto che c'è anche Andrea, e facciamo cultura su mobilità sostenibile, sicurezza stradale e vivibilità urbana. Andrea, è una domanda per Marco? Visto che non ho ancora completamente abbandonato la speranza di tornare, mi sa dire se si muove qualche cosa lì in Italia? Ma in Italia qualcosa si muove, ma un po' a stento. Il trasporto pubblico, per esempio, è ancora molto penalizzato, ci sono molti investimenti nelle grandi opere, ma che possono essere poco efficaci. C'è una buona attenzione alle questioni urbanistiche ed ambientali, alla ciclabilità e anche alla sicurezza stradale, che però purtroppo sono ancora poco sovvenzionate, diciamo, a livello di finanziamenti. Grazie a Marco De Mitri, in bocca al lupo. E domanda di rito per Andrea Colaiacomo: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Intanto metto in chiaro che espatriare non è assolutamente facile, perché si lasciano indietro molte cose, quindi ovviamente oltre allo scontato inglese bisogna avere molto chiari gli obiettivi che si vogliono raggiungere e quindi impegnarsi anima e corpo per raggiungerli. Ritorna anche quest'anno l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 19 aprile, sostituendo la rubrica Jobs Abroad. Premieremo 4 ascoltatori tra i 18 e i 30 anni che invieranno da adesso fino alla mezzanotte di oggi una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta. Il tema siete voi. Nel 2014 parte la Garanzia Giovani Europea. In 140 caratteri elaborate la vostra Garanzia Giovani da proporre all'Europarlamento. Un breve progetto di proposta comunitaria che renda l'Europa un vero spazio unico comune dove occorre occasioni di formazione e lavoro siano garantite agli under 30 trasversalmente nei 28 paesi, una direttiva da sottoporre alla prossima legislatura dell'Europarlamento. Inviateci le vostre proposte in 140 caratteri con i dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e pubblicatele su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione però, inviate le vostre proposte solo fino alla mezzanotte di oggi e nell'oggetto non dimenticate di scrivere la parola giovani, ripeto la parola giovani. In premio 4 viaggi al Parlamento Europeo di Strasburgo a fine 2014. Vi ricordo la casella email concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi, ultimo sabato del mese, vi proponiamo, come di consueto, una tra le decine di lettere che giungono settimanalmente a giovanitalenti@radio24.it. Quella di Nicolò, giovane emigrato in Cile. Da Sud America lancia un messaggio di fierezza e rivendicazione della propria condizione di espatriato. Noi che ce ne andiamo siamo la vera speranza dell'Italia, scrive Nicolò. Una missiva da ascoltare fino in fondo. Mi chiamo Nicolò, ho 23 anni. E da settembre sono a Santiago del Cile. Dopo la laurea triennale in ingegneria gestionale a marzo 2013, ho scelto di non proseguire gli studi universitari e venire in Cile per far parte di un team di innovatori nel settore dell'educazione. Andarsene non è facile. Non è facile soprattutto se decidi di farlo interrompendo il tuo percorso universitario, scegliendo di andare dall'altro lato dell'oceano e nell'altro emisfero. E senza la sicurezza di un lavoro. È una scelta che avrei fatto in ogni caso, perché voglio conoscere il mondo e perché è necessario muoversi per trovare le persone giuste con cui costruire e realizzare la propria visione. Ma le attuali condizioni economico-sociali del nostro paese mi hanno spinto a farlo prima e con una prospettiva di lungo termine. L'Italia ha sostanzialmente condannato la mia generazione e le prossime a pagare il debito lasciato sulle loro spalle, lavorare per pagare il conto altrui non avendo niente da risparmiare per sé. Vivere e lavorare per il passato, invece che per il futuro. No, grazie. Io non ci sto. Sarebbe miope e assurdo aspettarsi una soluzione dalla politica. Via dall'Italia. Questa è l'unica soluzione. Tutti i paesi occidentali, chi più chi meno, presentano la medesima condanna per i propri giovani. E quindi ho voluto guardare oltre, ai paesi che offrono maggiori opportunità e le basi per un futuro migliore. Dove? La mia risposta è stata il Sud America. Ci sono buone ragioni per pensare che l'America Latina sia il continente del XXI secolo. Dal Messico al Cile si parla la stessa lingua, con il Brasile unica eccezione. E ovunque la società è il risultato di mix migratori che hanno determinato una notevole varietà e dinamicità culturale e una diffusa e innata mentalità imprenditoriale. I paesi latinoamericani, inoltre, presentano le statistiche demografiche migliori al mondo, per una crescita stabile di lungo termine, con un total fertility rate generalmente di poco superiore a 2. E l'attrazione nei confronti degli occidentali è forte grazie alla facilità d'ambientamento per le affinità culturali. Infine ci sono le bellezze naturali, l'ottimo cibo e la buona musica. Chi se ne va dall'Italia è la vera speranza dell'Italia stessa. Perché chi se ne va fa il passo necessario per salvaguardare il proprio futuro, creando le basi per avere il capitale finanziario e umano, l'energia e la visione necessari per, forse un giorno, tornare e ricostruire l'Italia dalle macerie cui sarà stata ridotta. I giovani devono smettere di contribuire a un sistema che uccide la loro potenzialità e neutralizza il loro talento, e devono venire a costruire il proprio futuro dove sono messi in grado di esprimersi. Un motivo per restare o tornare. Avvia la seconda edizione di Startup Revolutionary Road, il programma a sostegno dell'imprenditoria giovanile promosso da Microsoft, Fondazione Cariplo e Fondazione Filarete. L'obiettivo dell'edizione 2014 è raggiungere 22.000 giovani, formarne ulteriori 2.600 durante le Startup Schools e creare 900 nuovi posti di lavoro. L'iniziativa mira a supportare i giovani nella trasformazione di un'idea di business in startup. Tutte le info su www.digitaliperchescere.it/startupper. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava e aperta all'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Garanzia Giovani. Dibattetela in 140 caratteri.